Do you remember what Lorenzo said when asking for the bus tickets? Vorrei anche due biglietti dell'autobus. He used the magic word vorrei. I'd like. This is a very useful and polite word, and you can use it to ask for anything you want in a bar, restaurant, shop, hotel, or wherever you are. Vorrei un'insalata. Vorrei una camera singola. Vorrei una penna. Vorrei un panino. Vorrei il conto. Sarah and Lorenzo have their bus tickets and now they're at the bus stop waiting for their bus. Ecco le parole nuove. Ascolti e ripeta l'italiano dopo la seconda volta. Venire. To come. Venire. Quasi. Almost. Quasi. Fra. In. To express future. Fra. Circa. About. Circa. Dipende da. It depends on. Dipende da. Traffico. Traffic. Traffico. Adesso ripassi il nuovo vocabolario e quando si sente sicuro, ascolti il dialogo.